Neve, insegnami tu come cadere nelle notti che bruciano a nascondere ogni mio passo sbagliato e come sparire senza rumore, scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri. Ma non è semplice a non sentire il silenzio che c'è. Qui non è facile guardare il cielo stanotte, perché quello che sono l'ho imparato da te. Tu che sei la risposta senza chiedere niente, per le luci che hai acceso a incendiare l'inverno, per avermi segnato a cadere come neve. Yeah.